Tutto è pronto. Possiamo partire. Buongiorno a tutti. Sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. No, così. Mi piace dirlo. Gestito dalla politica. Non è una mezza verità. Non vende porta a porta una triste plasticità. Non è gestito dalla cultura del come dovrebbe essere. Non è gestito dalla cultura del lieto fine. È una passeggiata. È un suono puro. È il pensiero del com'è. E ogni giorno c'è. Cammino di Gigi D'Agostino. È una musica che unisce. È una musica che unisce. Ecco qua, va. Dal 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora, la musica c'è. Quando dico altre storie, intendo dire... quello che desidero raccontare musicalmente. Tutto quello che desidero, quello, tutto quello che desidero, quello, tutto quello che desidero, quello, tutto quello che desidero, quello, tutto quello che desidero, quello, tutto quello che desidero, quello, tutto quello musicalmente. Quando dico altre storie, intendo dire quello che voglio dire, ma che non riesco a dire. Cioè... Gigi, ma come mai la tua musica non si sente più nelle altre radio? E dalla cabina. Oh, complimenti per il nuovo CD. Rosella, dalla provincia di Reggio Calabria. Se volete mandare le vostre dediche o volete far sentire il vostro pensiero, mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Nel settembre del 1981 acquistai i 45 giri di quel racconto per potermi riascoltare quella storia ogni volta che avrei voluto. Sono Flavien, un ragazzo francese che ti ascolta da 6 anni. Voglio dedicare la batteria della mente, ai miei amici. Grazie per tutti questi momenti di felicità con la tua musica. La batteria è completamente caricata. La batteria è completamente caricata. La batteria è completamente caricata. È il cammino del Gigi D'Agostino.

Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Tranquillo, sei coperto. Alle 2 del pomeriggio suona Gigi. La scienza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. Alla contingenza. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve ininterrottamente. Sono Paola dalla Valtellina. Volevo salutare Cree, Marco Di Cannelli e Stefano col trattore blu. Grazie per la tua musica. Prego. D'Agostino.

Caro Gigi, vorrei tanto ascoltare Music and Echo Deep Inside e dedicarla a tutti quelli che hanno perso un amore vero, proprio come me. Elena 78, da Cesena. Stai sicuro. Pota, allora, che dice che l'ha fet, che? Allora? Sa segne. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Allora? Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin. Ah, ragazzi, gariata tu. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Allora? Questo è il cammin di Gigi D'Agostino. Questo è il cammin. Ah, ragazzi, gariata tu. Ciao Gigi, volevamo dedicare Impressioni di settembre a Sab e farle tantissimi auguri di buon compleanno. Ti vogliamo bene. Tam e Sweet Stellina del forum gigidagostino.com. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dormo ancora alla campagna, forse no. E sveglia, mi guarda, non so. Sì.

M2O. Un ambiente sano. Ora c'è lui, DJ Provenzano.